e avanti. Oi, ciucu ciucu. Ciao Giomari, buonasera. Buonasera, Berto, lei, come si fa, come si fa? Bene, bene, sono qui a Pedalienza. Sto guardando i portatili cinesi. Non ti sei a Pedalienza? Sì, sto guardando i portatili cinesi a vedere quanto vengono. Mi un coglione, ho trovato un Pinocchio qua, ti aspetto un attimo. Ah. Don Maria, mi ascolti? Io sono qua, Tonè. Allora, come mi ascolti? Bene. Benissimo, va benissimo. Oh, con Gommino sono, Sì, altrettanto, sono con Gommino quello lungo. Non quello corto, quello diverso. Cinese lo stesso. Va benissimo, è a voi gli artisetti. Perfetta, la radio è buona. Segnale a fondo scala. Sono contento, sono contento. E io come ti arrivo? Fondo scala anche tu. Naturalmente c'è il QSB, già lo sai, no? Quando sei in macchina con Gommino, che sei in movimento. Ma vanno bene, dai, a Puglia. Evidentemente la zona è buona, per cui arriva, arriva. Va bene. A Puglia, sono contento, qua. Era ora che sei contento. Già lo credo, giallo. Solo sì. Cucù. Cucù, adesso il segnale è più basso, però Antonio. Sono invece Maurizio, vicino allo Spin. Ah, ecco perché, ecco. E infatti, è a 3 di segnale. Adesso va bene comunque. Sto andando nella piazzetta di fronte a Maurizio. Un pochettino più in giù. Adesso si è uscito tutto a scarce. Vabbè, già non c'è problema per quello. Dai, effettivamente c'è qualche ostacolo in mezzo, va. Tati, c'è nessuno? Giù Maria! Giù Maria! E chi è? Il carabinieri di Alzara! E dove sei adesso? Sono uscito dallo Spin! Ah, ecco! Un po' a scariche sei adesso, Sei un po' a scariche! E anche tu sei a scariche, se per questo! Ma adesso già mi senti bene, sono di fronte a te lì nell'aria. Adesso sei arrivato bene, dove sei bene? Andiamo a Europisi a fare l'attesa? No, sono andato dai cinesi, stavo guardando un po' di portatili, stavo guardando. E ho trovato una scatola di 888, diciamo vero, cazzo, viene da solo uno dentro. Evidentemente l'altro si hanno attaccato dalla scatola. Hanno aperto la scatola e se l'hanno fatto tutto. Ah, ho capito. Caba, caba. Eia, ah, certo, ma non vai a nessuno, Tutti in giro sono, gatta, Tutti in giro sono, cabu. Allucinante. Tutti a passeggio. Tutti a mare ce ne sono andati, anche a quella moglie. A metà testa a mollo sono andati. E allora, per carità. Te ne sono la ridore bassa. Dai, ci sentiamo dopo, Antonè. Sì, va bene, ok. Attento, gufo, c'è Gambito C. Gufo, te ne sono fregando l'antenna sul tetto, c'è gente. Chi è quello che c'è sul tetto, gufo? Vedo uno vicino all'antenna tua. Gufo, riscettati. Rina, rina, rina, già la voglio, già è simpaticona, e di bussa muoio. Beh, se ti sto rispondendo vuol dire che stai arrivato bene. A voi ti sento bene, perfetto. Segnale, sono 3, però la radio è buonissima, 5. Va benissimo, a voglia. Va bene. Allora, sei riuscito a tararla bene, sì? Va bene, dai. Anche qua c'è uno di stazionari. Sì, vanno bene, a voglia. Vigile. senza accordare niente. Ehi, chiatta. E quant'è lo stilo? Ehi, chiatta. Allora hai fatto veramente una cosa ben fatta, eh. Ottimo, eh. Ottimo segnale, ultima radio. La radio è perfetta, eh. Perfetta al 100%. Con 19 centimetri di silo. Vabbè, chiatta, cosa vuoi pretendere? Più di che va benissimo anche a uno, Però se è piccola non è che possa arrivare dove arriva la tua, no? Anche se sei un posto però arrivi, arrivi veramente bene. Oh, perché ostacolo non ce ne sono e siamo in linea d'aria, non è che siamo lontano, molto lontano, capito? Chiaro, no? Di un altro senti, bene va. Però quel macchiso, essendo così corta, non c'ha diciamo l'uscita come la tua, che c'ha 60-50 centimetri, capito? Perché è troppo corta, essendo in un posto non esce assolutamente. È vero. Ciao lei! Oh, in stasera non è niente pisolino. Vuol dire che tranquillo, non gli serve niente, per cui ne approfitta, capito? Fa bene. Ciao, Otto. Ciao, Gio Maria. A me mi serve sempre, no? Che non mi serve niente. No, stasera non ho riposato, sono anche maldito. A casa tua, scrittore. Allora già va bene. Buonasera a tutti. Pensavo che eri a casa tua perché sei basso, dai. Proseguite, che sto facendo? Salutato io, ho detto buonasera a tutti. Sì, sei 5-5, ma da casa tua eri in fondo scala, quindi per quello te l'ho detto, pensavo che era a casa tua. Funziona bene, lasciala stare, funziona bene. Proseguite, a più tardi se coincide vi sciogo zappendi. Avanti, Gio Maria, riprenditela. Ehi, non ti appassai, no. Io ti c'è la gobba, occhio. Sto facendo, preparando il massetto, domani mattina arriva il motocarro per fare lo scivolo dell'ingresso del cancello, se no tocca la macchina. Quella allora bisogna farlo, Se no tocca oggi, tocca domani, ciao macchina, in fondo della macchina. Fai bene, datti da fare. Lo sto preparando, ci devo mangiare, mi carica già tutto, E lo facciamo, capito? Va bene. Divertitevi, già c'è una radiolina accesa, sentiamo dopo al limite. Avanti, Lucariello. Oh, clama, la buoni la brittella, batti nel cancello fermo. E allora, la brittella, i goci, i bolloni, a giubbotto, tutto pronto, lu. Ha già fatto pure lo goccio per la paretta, tutto. Allora va bene, dai. No, ma dico, la brittella la batti nel cancello usarrato, mi, capito? In caso che qualche uno entri, E allora, già vai agganciata la brittella, tanto, lo vai. Tutto agganciato, così domani fa bene. Adesso ce l'ho chiuso, se no si esce disso disgraziato, che sta morsicando la gente, che boh, arrasa del cane esaurito, beggio il padrono, Andava, Tomo, qua già ti sento anche io, un po' basso, dai. Frusciato, arrivi, comunque già ti ascolto. Non so come mi ascolti tu, avanti tu. Ho capito, va bene allora. Già andava. Ma io mi ricordo che anche con il gommino ti sentivo, dai. Perciò non è che c'è questa grande differenza. Allora va bene, dai. Avanti Gio Mari. Ma infatti sta andando bene, a voglia, cazzo. Va bene, tu tranquillo, anche se sei in quel posto, va benissimo. Allora, cosa hai fatto oggi? Zappato hai oggi, sì? No, oggi mi ho sistemato un computer stamattina, là, diciamo. E poi, niente. E ancora devo andare a casa a finirlo. Stavo aggiornando. Sì, perché avevo messo un altro sistema, ma mi stava dando problemi. Allora, l'ho cambiato. Sembra che questa vada molto meglio. Tutto qua. Bisogna andare sempre da fare, sennò guai, che si preme per tutto. Vediamo un po' se Macchisio sta rincasando. Attento Macchisio. Sto Macchisio ancora in mezzo alla gavafiori. oh, ma anch'io lo sento, se dovessi entrare lo sento anch'io, ma ripeto, non è che ho con ostacoli io, capito? Se di che lo dovrei sentire benissimo ugualmente, anche se piccolo con l'antenino dovrebbe arrivare, capito? Ma vediamo un po' di nuovo se appaia e siamo qua. Ah, ti lo, e chi è? Bacchi, tu sì! No, non dovrebbe essere Bacchissimo. Vai, Tore! Serio, dovrebbe. Ehi, vabbè. Oh, vediamo un po' lo chef. Attento, lo chef. Oh, chissà cosa combinerete. Chi ci deve passare per la moglie? E allora? Catta. Per la moglie, lui, avanti. E anche, può essere anche tu. Cacchi, cosa è stato, e prendi, se no sarebbe stato qua Luca, ma ci aveva ancora un piatto di pasta al forno e ne dendrà chi tutto, vedi, lui ci ha mandato la pasta al forno, Gio Mari. Allora già si comprendiamo lui, e ci mandato al filo, ma oggi tu mi hai ricaputo la giumagnata, ma che non mi tocca la pasta al forno, Mari. Ah, non ce n'è più. Mario, non ce n'è più. Hai te. L'ho visto che sbagliato, allora, Tommy. Luca! Eia. Allora, Tommy, stavo dicendo. Tu non hai risposto. Ah, si può. Avanti, buonasera. Ok. Ma dove sei? In garage? Ah, allora, vedi. Allora io ti sento ugualmente, tu hai visto, che sta arrivando anche Bacchisio. Bacchisio se non allunga, prova a tirare la Bacchisio, allunga quello stilo. Ciao Bacchi. Ah, sì, Bacchi, Tore non ti sente, assolutamente. Mentre che invece Tore arriva che è una cannonata qua, Tore, la Bacchisio, quell'artino tuo come arriva, diglielo. Ma non mi ascolti? Ma come fai a non ascoltarmi? Male. Stazionaria ci sono. Non vogliono lavorare. Sì, ma con l'antennino che hai fatto? Ah, benissimo, stai arrivando bene. Benissimo, to. E quanto mi devi dare però a me? Allora, andiamo in pizzeria, dai. Tole, metti i quattro in tasca, andiamo in pizzeria. C'è Gian Maria e anche Luca, Siamo in quattro. Benissimo. Ciao Mari, bene va. Per il consiglio gli ho dato la pizza per tutti. Bene, Bacchi, va bene. A Puglia. I consigli bisogna pagarli. Grazie, non si fa più nulla. Eia. Però, infatti, c'è vicino, capita. Quella di Tore è più forte la radio, È molto più forte. Tu arrivi bene ugualmente, però non è forte come quella di Tore, Bacchi. E dovresti arrivare più bene tu di Tore. Ma Tore c'ha l'apparato piccolino, io sto usando questo trabicolo che io non so perché esce basso, non lo capisco affatto. Ho cambiato il microfono, cioè adesso io ti faccio sentire con l'altra radio e esco più forte. Bisogna fare anche cosa, Bacchisio, sennò con queste stazionarie non va bene. No, base. Da 4 watt questo qui, sono 4 watt, ma non li dà 4 watt. Penso che stia dando 2. Eia, e da dove aumenti? Se non sai dove devi andare. Io sono viottolo di campagna, solo e basta. E fai più bella figura così, mi fa così. Cercala e fammi sapere, se no sono cavoli tuoi. Secondo me è andata mangiare sto Gio Maria. Non mi piace, no? Non mi piace il padrone proprio lui. Preferisco i panettone, quelli con la frutta candite. Capito? Se ha la cioccolata è meglio ancora. Tu grandetta, per favore! Sì, Gio Maria, vedi che bello c'è mi. Il bello della diretta, della frequenza. Sì, a Puglia. Adesso sono rifermi a tutti. Qui fa la prova a soframodularmi. Hai capito quella vera, eh? Famone! Allora senti, Lu. Allora. Per carità, ragazzi. Ogni tanto si affaccia e chiude. Boh! Avanti, signor To! Ah, fai in barriga, tu che sei impresario! Che non ha avuto la prata niente, dai su trans. Vedi tu lui, vero? Camaddo. E beh, trullala! Attento, gufo tristo! Mormito sei! Adesso fa pellet da vendere! No, Flipper ce l'ha la sua pelletta in vendita! Ma quella è sotto il telecomando! No, che già funziona bene! Beh, se hanno il telecomando va bene, se no! Lo farà un telecomando! Lui, telecomando ne hanno, queste stufe che fai tu! Quella che c'ho io! Ce l'ha il telecomando! Quella che fa Luca, non lo so! Non te lo so dire, ma penso che con la nuova tecnica farà anche il telecomando. Io quella di Maria la comando, col telecomando della televisione. No, no, io ce l'ho, l'ho provato una volta anche a lasciarla in automatico, accendersi da sola, però non mi fido e non ne adopero. È facilissimo, tu imposti l'ora che la vuoi accendere e poi fai send. Però lo devi fare a telecomando spento, capito? Se tu lo fai a telecomando acceso parte subito. A telecomando spento, imposti l'ora, non ne so, ore 17 e fai send. Fa un e sei tranquillo e sereno. Vabbè, quella reazione è molto molto più grande. Ma è sempre meglio di tutti a uno in casa, accenderla così, non andare da solo, non mi fido. Mia cognata si fida invece, si mette l'automatico, a quando arriva al lavoro trova la faccia della casa calda. Perché Maria non fa così? Avanti Gio Mari. Sono io, ciao Luca. Chi è, avanti? Mi senti? Lo sento, chi è Gio Mari? Avanti, avanti, buonasera. Gio Mari, tu mi senti a me? Sì che ti sento. Oh, non ho capito chi è però, Tino, Chi? Tino. Ma perché sei così basso, grazie a oggi? Perché da lontano, e adesso? Adesso va bene. Oh Tino! Io a Tino non lo sento, eh. Aspetta, che hai detto che stava facendo l'antenna, pura cosa del genere. Allora, vediamo un po', Tore. D'accordo, allora, quando hai finito, abbaia. D'accordo, Tore, va benissimo. Grazie, lo senti a Tore? No, è da qui, a San Giovanni. Ehi, a San Giovanni, No, prova se ti sento. Sì, adesso sì, l'ho messo orizzontale il trabacchino. Ehi, già ti sento abbastanza bene, ok. Luca, riprendi. Sembra che c'era anche il bello, ha dato la battuta e si è ritirato. Bello, su fa pelle se ci sei. Ma si arruccede, ma sei terrazzo, grazie. No, chiama, coppia, sta facendo modellini di super pellet, super rapide, L'ha preparato la te, bella, Preparati dollari, che te la porta, te la fa provare. Gli ho detto a farmi un prototipo. Che la provo qua a vedere e poi vediamo. Ma a prova si dà, nemmeno l'auguri adesso danno a prova, No, io la cosa la provo prima, vero lui? Chi è che sta uscendo a tratti? Malissimo! Senti, ma ti sento, come quando sei fuori, capito? Tino, poco fa sta uscendo benissimo, adesso sei uscito malissimo, è tutto spezzettato. carriere. E beh, hai visto che la scheda elettorale me l'ho fatta la circoscrizione. Lì al bunker. A chi stai dicendo, grazie? A te stavo dicendo, non hai detto che me la devi fare in comune, che te la devo fare in comune. La tessera elettorale. No, non ho capito, una cipicchia, eh. Ripeti, alza la voce. Tore mi ha detto l'altro giorno che la scheda elettorale, siccome era piena, la dovevo rinnovare. Mi ha detto che la facevano a piazza Santa Caterina. Invece sono andato alla circoscrizione del bunker, perché qua era chiusa la circoscrizione e me l'hanno fatta lì. Ah, ho capito. Ah beh, allora tu l'hai già fatta e va bene. Va benissimo, mi raccomando, A Berlusconi, Siccome Tore mi ha detto che i inoculati dolci non i basiani, sono andata a vedere, mi pare strano. Ed era chiuso oggi, il martedì è chiuso, domani mattina è aperto. E poi ero in giro a Sassa, a che sono cazzato un burano conti, di fare la città va entro in che domanda qui. Sì, mi la base mi la fossi no. Sono entrato lì alla circoscrizione lì del bunker, lì vicino alla rotatoria, allo stadio dei Pini. E mi ha detto certo che la facciamo, si accomodi 10 minuti. Ho aspettato, so che tra 10 mi l'hanno fatta subito. E a me mi hanno fatto la carta d'identità lì. Mi avevano rinnovato, però adesso da parecchio, sarà 3 o 4 anni fa. Fanno tutto lì, Adesso fanno anche le carte d'identità di quelle piccoline, non ne fanno più quelli di carta come prima, Già lo so, ma ancora la mia gli avvenivo a casa, prima di scadermi, vado e me la faccio fare. Lì avevo fatto anche, quando ho venduto sia la moto che la macchina, quel passaggio di proprietà, che dura 6 mesi, provvisorio, entro 6 mesi poi vai a Lacci, capito? E poi invece quelli là se l'hanno fatta a Lacci, sono andato pure io e l'abbiamo fatto direttamente a Lacci, capito? Però lì aveva preso quello che ha comprato la moto, la macchina, una marca da bollo da 16 euro e l'avevo fatto lì. Già lo fanno, e cazzo, come lo fanno? Hanno tutto lì adesso, Bene, dopo. Tore, il canino sì. Tore, lo riprende. Luca sta mangiando la pasta al forno, grazie. Oh, sono con il tutt'altro oggi. Niente pasta, oggi funghi con le olive. Una fettina di cavallo, melanzana alla parmigiana, peretta, sartizza e parmigiano. E buh! No, sta cosa ha mangiato oggi? Peperoni, con sughetto, buoni, buoni, veramente buoni. Immagina la tirata messa gli fuggi in mezzo e tira a campana salotto mezza penne coi funghi salotto non lo so se si mangio mi posso non dire a chi mi tenne ancora la bassa piena perché mi ha mangiato una focaccia là, ma non di chi ti mangi male quella è stretta un pochettino lunghetta una di chi si impara la fettina e i funghi, melanzane e tutto quanto. Ed era in tria, me la sono mangiata. Vabbè la mollica ne l'ho levata. Se un po' se Tino ha messo a posto tutto, Tino, se Tino deve essere maneggiando. Core, Pacchisio. Eccomi qua, presente. Camero Bacchisio, c'è, Torre si è assentato, Tino sta maneggiando sotto le frisca frasche, Luca sta mangiando pasta al forno, Luca ancora sta masticando, per cui non può parlare, vai Grazia. Ciao Bacchisio, e beh, tutto a posto? Ciao Grazia, buonasera, tutto a posto. Ci sono mezz'ora qua in posteggio, ero posteggiato con come un sacco di patate. Io non ti ho sentito, non mi hanno detto niente, Luca non mi ha detto niente, chi c'era, chi non c'era. Io sono entrato perché ho sentito a Luca e a Gian Maria e a Tino al volo l'ho sentito. E nient'altro, boh, ti ho sentito adesso. Sì, adesso c'è una cosa qua, da quando Tore si è andato in quel Rix e invece doveva spostarsi. Allora, posteggiato. Ehi, hai visto quella tessera elettorale? L'ho fatta alla circoscrizione lì che c'è al bunker, perché qua oggi era chiuso e se no la fanno anche qua, mi hanno detto. Sì, questo qua apre quando vuoi lui. A giorni alterni. Scusate un attimino, come mi sentite ora? Passaggio lì è a giudizio. Ah, ma è tre domande, avvisi. Se mi la fatti no che me la posso vedere bene. Mi ha detto certo che la facciamo, si accomodi. E qui la grazia non credo, Scusa qui. Scusate, perché ero fuori frequenza, com'è? Adesso c'è un bombon, riprova. Vabbè dai, ero 0,75 anziché 0,85, così via, 0,80. Bene, bene, aspetta, ti voleva sentire Gian Maria, lo coppi bene a tu? Va bene, adesso sì, buonasera, perfetto adesso. Capo, involontariamente ho toccato dei tasti, stavo cercando nel menu. Va bene, sono con Rick, saluto a tutti, ciao Bacchi, ciao a tutti, che sto facendo cosa con altre frequenze, grazie, ciao. Ok, ti aspettiamo, vai, ciao. Ciao, ciao Tino. Ehi, ciao Tino, buona serata, buon divertimento, alla prossima. Allora, grazie, cosa racconti di bello? È mollato questa frequenza 2027. Sì, ma se massaggi a lungo. Sì, non credo. Ma perché Ma mia moglie. Poi al Contini sono andato a fare quella tessera elettorale, scendendo lì e da sopra, da Piazza Lessegni. Poi sono andato all'Eurospia a Predanietta e poi sono venuto a casa e si è fatto la 1:20. Sono degli impiegati, sei tornato a casa. Ah, capito. Ma eri con l'autista però. E allora, io ho l'autista personale, femminile. Che femminile tre? Perché sei tu vizioso sei. Ho preso Gian Maria, autista femminile. Ma non lo sapevi, lui è benestante, Graziano, Lui c'ha l'autista personale, per cui va dove gli pare, quando il piatto si mostra, quando il piatto si cammina, non sta mai da vicino. Lui se lo può permettere, non come noi, poveretti, gatta, che non abbiamo nemmeno gomme per camminare. Ce n'è un'altra di autista, che è l'amica di mia figlia, che mi porta anche lei con la sua macchina. Ieri ha fatto le guide, oggi altre guide, e poi mi porta anche quella. Capito, le giro sempre, andò a vedere. Oggi cos'è? In 500, vi ringrazio. Oggi ero in Twingo, se no vado con la C2, o se no quella là si deve prendere a mano un momento, c'è chissà della Renault o della Peugeot, quella specie di pulmino. Allora sarà un Kangoo. Non me lo ricordo che marca è. Cioè è bello, mi ha fatto vedere il modello nel cellulare. Sì, sono tutti belli oggi. Oggi sono tutti belli i modelli. Soldi ci vogliono a comprare. Ehi, quella poi fa lezioni di psicologia perché è psicologa. Se ti interessa, se c'è qualcuno o chi ha bisogno di qualche psicologo, dilla a me. Senz'altro, grazie, senz'altro, penserò a te. Senz'altro. Appoggiare due Graziano, ma chi? Appoggiare due, bisogna tenertelo conto a Graziano, capito? Appoggiare due lungo, due. Poi c'ha la tesi di laureando in giudice, se ti interessa che giudice, dimmelo. A te, capito, vai a Macchi, sto a guardare così, no, vediamo un po' se c'è Tore. Tore! Marì, ma non posso parlare perché sto guidando. Ah, dai, allora ti lasciamo guidare che è meglio, che è più, che è pericoloso guidando. D'accordo, Tore, già ti chiameremo dopo. Macchi, riprendi, mi assento 5 minuti, dai. Benissimo, benissimo, Giovanni. Ok, Tore, c'è arrivata una bomba, c'è arrivata, mi sembra che ci sono toccato. Lascialo guidare, se no sono 10 punti dalla patente e 6 mesi di galera. A meno che non si mette il viva a voce. Grazie, Tore, non c'è in cursi, non entra in galera, esci Edo da Ianna. No, entra in Lucrezia che ti dà palinaggiare l'oceano. Fa guidare a tuo nipote che tu fa dal baracchino. Io infatti quando mi siedo non parlo, spreme la bambina e io parlo. Ah, ecco. C'hai anche cosa, siamo usi per il microfono, per parlare alla radio c'hai l'aiutante. La maggiorduoma! Tore, fa parlare tuo nipote, aiuto. Luca deve essere licicato sotto al ruretto. No, Luca deve licicato sotto alle cubicchi. Una vergogna, già trommi il bocco, da poi trommi il burro la notte, ha il coraggio di dormire la notte il burro. E adesso con dare 4, ma con 4 ci dato. Cadere un biglietto di sonno, alle 6 mesi mi sono a un campanello. E Gaena, chi c'è dell'ossigeno? A di me me lo bagno. Ma mi sicuro che moria, se non veniva, magari faceva più lungo, te te via e non avvi. È meglio essere sempre con la provvista, grazie. Siccome devi telefonare il giorno prima, mi capita, ma non crediamo che vieni all'isolato. A chi da voi? Che fa di 4 sicurezze e va via non cazzata e si viaggia in paesi. E mi ne viene proprio a me alle 6 mezzo di mezzanotte. Boh! Pensate, dice che la tiana ha finito l'ossigeno, dunque anda può capire che sto chiesto. No, l'ho telefonato ieri a dirgli che ce l'avevo solo per ieri notte, no? Infatti, quando arrivi Gioedo era già finito il bombolone, non ce n'era più. Vedi che ti occorreva, è arrivato in tempo, è arrivato. E vuol dire, non ha mancato, ma c'è 6 mesi di mesi ai 7. Vabbè, tanto io mi ne mesi un ghizzo, già non ho problemi. Infatti da voi mica mi sono cucucato. Ho acceso la TV, mi ho preparato il caffè, mi ho misurato la glicemia, mi ho preparato il tè. E niente, mi ho guardato il telegiornale. E dunque è passata l'ora. Vediamo Tore a che altezza è arrivato, si è arrivato a casa. Tore è arrivato, sì. Oh, signor Marchisio! Beh, Tore, dove sei? Sono a casa di mia figlia, sono, quindi adesso sto salendo su. Ci sentiamo più tardi, ci sentiamo. La schiacco, cosa hai fatto? E mio nipote che ha 6 kg. Ma vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Adesso arrivi a bomba, attore, proprio perfetto, Non lo credi, sono in ogni Sant'Orsola. Ma ti sento bene bene, proprio chiaro chiaro, bella squillante. E forse faccio un'antenna fatta al coso. È importante che funziona. C'è bene, proprio perfetta. Vabbè dai, ci sentiamo dopo quando arrivo a casa. Ok. Vai Bacchi, guarda se c'è se Luca se si sente. Ciao, a dopo, dai. Luca, ci sei? Luca è drumito, grazie a... Secondo me Luca gli piace troppo il sottaruretto. Nino nanno, nino nanno. Ma come stai andando col gommino, grazie a... Eia, perché? Una piccolina come quella di Tore. Grazie, io ogni tanto mi lavo, non sempre, ma ogni tanto mi lavo. Dimitri, è uno stilo piccolino in acciaio. Io. Luca ha detto che si sta lavando. Piccolino, ce l'ho in macchina, fatti conto, da Santo Zettaro, arrivo da Antonello Pomponio a Pondo Scala. Ma con questo antennino che ho, con questo PMR, prende abbastanza bene. Anche l'altro, mi sembra che ce l'ha uguale a questa l'antenna. Non me lo ricordo quello che ho conservato. Il PMR è collegato sopra con l'antennino in acciaio. C'è la carica. È uno stilo piccolino, 10 cm sarà. È un gommino in punta. Però è flessibile, ma se no plastica e non è neanche acciaio. Prima dentro c'è l'anima in rame, però c'è invece l'anima in rame. E all'interno sicuramente c'è un filetto di filo del rame, però è abbastanza morbida, non è rigida, la puoi piegare come ti piace. È flessibile. No, l'antennino l'ho fatto io, c'è la carica anche l'antennino e più lo stiletto, un pezzo di stilo, e così anche quello di Tore, è uguale identica. No, questa è la sua, è l'originale, l'avevo preso così in fotografia, era come qua, c'era questo, il microfono che non ne uso mai, e carica batterie e la cuffietta, ma non ne tratto mai. E anche questo così, con la cuffietta, il microfono inserito nella cuffia, è un rompiscatole, devi buttare e devi trascinare tutto quanto. Oh, io l'avevo solo provato quando mi era arrivato, però mi dava fastidio, e allora ha detto, ma cosa mi ha fatto, me lo tratto così, va, c'è andare. E poi è bellino perché c'ha la radio, c'ha la luce, la batteria, da pila fa, anche forte pure la luce. Sì, infatti, anche questo è così. Anche questo è quello che guarda, aspetta un po'. Anche dal lampeggiatore, c'è un sacco di funzioni, c'è anche quel tassino che se lo metto, se alzo il tono della voce, senza prenderlo neanche in mano, posso parlare e mi senti, capito? Poi c'è il VFO, c'è il VFO inserito, il VOX. Infatti la volta che me l'ha arrivato c'era quello inserito, non lo sapia. Luca me l'aveva detto, a Bucanino, a chi si intendia di Ciccio, chi dei rosizzenni con Paoletta, ai nonchi, capito? Forse sentiva tutto, si apriva da solo, capito? Ehi, Tore è arrivato, sì. Si chiama Vox. Vox, è un lapsus è stato, è un Vox quello lì. Ehi, già lo so, Bocco se si chiama, dammela a me. Ehi, ma lui mi ha regalato, non ho più messo. Anzi, per dirti, la sua voce ha imbagliato e rubato i tennis una frequenza delle radiamature, non me ne sono accorto però. Me l'aveva detto Claudio. E allora gli ho messo il blocco a tassi e c'è sempre inserito. Così con il blocco non mi sbaglio. Ossia che magari tocchi cacca a tassi e cambi frequenza, capi? Attenzione, mi ricevi? Sì, avanti. Ciao, ascolta, scusa se mi intrometto. In che zona siete di Sassari? Periferia. Ah, ok, ho capito. Io mi trovo sotto Cavalcavia Ferrovia, zona... Non ho capito bene chi c'è, comunque zona del latte dolce, da. Hai copiato, perché stai arrivando a Pizzi qua. Sì, perché io sono in macchina e mi sto dirigendo verso zona latte dolce, verso Auchan. Io per dire sono di fronte a Auchan, io, Tore, Marchigio, tutti quelli che siamo qua. Sì, ho capito, scusami, ma io sono in movimento e magari arrivo a tratti per quello, Eia. Adesso ti rilancio a Bacchigio. Bacchigio, lo senti l'amico? E io che lo sento l'amico, buonasera. Però ho sempre aspettato perché è in movimento. Magari anche col portatile. Avanti, confermi, col portatile sì. Scusami tanto, non so se mi ricevi. Io, vabbè, ti sento a tratti. Ti sento a tratti perché sto arrivando in zona Auchan. E ok, infatti, sei a tratti. Sei a tratti, vediamo se Gian Maria ti ascolta più meglio. Gian Maria, avanti. Vabbè, dai, scusate. Comunque, scusate per avervi interrotto. Continuate anche la vostra comunicazione. Dai, io vi lascio. Passo e chiudo. Ok, noi non hai disturbato niente. Anzi, ci fa piacere quando una persona entra a fa compagnia. Buoni acquisti, allora, Auchan. Ci sentiamo alle prossime. Grazie tanto, buona serata anche a voi. Ok, buon proseguimento. E non ti spendere tutti i soldi a Città Mercato. Ciao, buon proseguimento. Grazie l'amico, buon proseguimento anche a te. Ciao, buona conversazione, ciao. Sì, ma come ti chiami? Giulio. Non lo so. Ehi, vabbè. Non si è presentato. Ehi, quando c'è da Città Mercato glielo chiediamo. Ehi, vabbè. Dai, sto guardando la televisione. Ehi, ok. Marchigio, vai avanti, riprendi tu. Carafiori, hai fatto oggi. Ciao Giù, buonasera. Ehi, colazione ho fatto, infatti la mattina io faccio colazione. Ehi, una carafiore, una caragreppa. Carafiore, cavolo fuori. Buoni, lo sai che la caragreppa è quella foglia, no? Sì, che sa foglia la caragreppa, i decimoni a fare la brava. Ehi! E ieri ho avanti ieri nel cellulare, va bene alle poppe delle donne, infatti vedi, la femmina si ha fatto i fogli innanzi alle poppe e poi si è messo il reggiseno sopra, perché non so che vitamina gli produce alle poppe. C'era per ingrossarle, grazie a... Boh, non l'ho letto. Tutto, era un bel lungo da leggere. Comunque molte donne lo fanno questa e lo tengono indosso tutta la mattinata, là, diciamo. E genera al petto delle donne, non so cosa genera, le tiene più vigorose. È vero. Ehi, l'aga la crepa, le foglie, sapucci, le foglie la poi un altro reggiseno e la poi la prendere in commissione di gas, la no. E poi tu la zio da buru, quei carotte, quella carotta. No, la posa sartizza me la forava Dio. Ma chi? Ehi, ehi, grazie. Ma chi sei? Non mi accade non vorrei più cavare la crepa. C'è il biglietto di femmini. Allora, anche Luca ce l'ha presa, vero lui? E cosa? La cara crepa. Sì, anche io me l'ho presa, dopo un pezzo te la do anche a te. No, finalmente è andata là, lì l'attighi. Non mi è rimasto un trucco, ce lo vuoi? No, male, non c'è dentiera. Te la frulli. Ma chi? Disgraziato, trucco non si masticheggia, si sruccia. No, ti consiglio. Oh, da poi mi fa sentire a me. Senta le ciò come se ti vuoi. E allora? Ma è che Luca non vuole mandarglielo. Non so se te l'ho mandato un video, Luca, di queste due tipe che se fanno il cocktail e poi se lo bevono in una maniera strana. Ehi, ma non so cos'è il caffè o cos'è, c'è la schiuma, no, nei bicchieri. E fa tutto il lavoretto, al bicchiere, mi. Non ho capito. Ma lo so se te l'ho mandato, ci miglio il telefono a vedere. Aspetta, ce ne mando uno io, aspetta, hai visto quel video che ti ho mandato io? Sì che me l'hai mandato, grazie. Te l'ho mandato? Sì. Che ci sono due ragazze nel bar, così. Però te ne mando uno io, guarda. Eia. Grazie, Sì, lo volevo tenere qua. Eia, cazzo, c'ho sette, Nico. Ma dopo li guardo, là. Luca. Boh, pieno. Ecco. Ehi, quello non ce l'avevo lui. Hai visto, che sincere che sono. Ma si sa che è così. Qualsiasi femmina è così, cosa. Ma, se no non c'è gusto. Ma chi? Senti. È che non c'è il tuo numero, se no te l'avrei mandato un po'. Mi ne hai mandato Luca, 37. La spada da Luca Flippa. Adesso come sto uscendo, grazie, ho aumentato, secondo me ho aumentato il volume. Sì, come tonalità di voce ti sento più forte. Ma chi? Ma dalle parti tue non ce n'è solo la spada, G, in campagna. Poi Luca. Non ce ne sono, ogni giorno c'è un tancato prima di fare da me, ogni giorno c'è gente, ogni giorno, non sono riuscito a farne uno ancora. A tante volte sono detto lì, dalle parti di Osilo, ma è... ancora dice che non è buono lì, troppo freddo. Dalle parte di Usini li stanno portando, da Usini dice che li stanno portando, però bisogna sapere dove. Ma infatti... ripeto, ogni giorno c'è uno, due, una donna, un uomo, un ragazzo. Io penso che stanno facendo la guardia con la scorsa poterla. Adesso la gente va a farle se li vende. Adesso ho visto qua su come si chiama? Su Facebook, lì nel market, c'è un coso dove ci sono tutti i gruppi. E questo tipo ne ha un be, cioè, dalle parti di Oristano comunque. L'ho visto anche io, Luca, 3 euro il mazzo li stava vendendo, quello lì. Vittore, il ciuri che ha bagnato, grazie. No, stavo rispondendo a mia figlia che mi ha mandato un messaggio. a dirla a mia moglie a chiamarla al telefonino. E Luca ha sparito. No, sono su WhatsApp, stavo ascoltando un audio, dimmi. No, oggi c'è sbacchetto, è sparito, sì. È sparito. Ma è venuto Michele, Luca, l'amico tuo. Sì, non si trova, mi ha. Ah, non è venuto. Ma cosa è venuto? Non mi ha mai chiamato, non è venuto. Oh, yeah. Ma li trovo tutti io, guarda. Ehi, vabbè, Ganduma li lascia in biglia. Ehi, ehi. Sai cos'è? Ce l'ho fortunato. Do la cosa... La motosega da riparare. Me la riporta. Peggio di prima. È pagato. Ci porto via il spugnatore, ciao. Tiro, ritorno. Altri soldi. Non funziona, è ammucchiato in campagna. Chiami quello là per testare tutta la papantella della terra. È accaduto Bacchis. Lasciatemi la bocca. Chi è? Io, ciao. Chi è? È Pompo. Ehi, buonasera. Ma tu eri prima, Pompo. Eh? Tu eri prima. Ehi, stavo schicciando, se mi sentivi. Già ti ascolto, forte chiasso. Ciao, Antone, ya mi senti? Ehi, mezzo a quel verme ti sento, catabu, sempre in basso ti sento a te, grazie. Anche io un po' di quel verme lo sento quando parli tu. Ah, sono fatto. Ehi, a quello che lo passi, e sei a coso, fuori stata, rifigurati. A momenti ti sento bene, a momenti ti sento un po'... Grazie, buonasera. Ciao Marino, bella! E allora, cosa ci racconti di bello? C'è Luca, Bacchigio, Gio Maria avanti me la metto qui. Riprendi. Questi giorni stanno male tornando, Perché sono col portatile, però mi sono spostato dal tavolo. Ah, un occhio di mi sono ascolto, ti faccio io, ma io non lo sento, tu. Grazie. Ok, Marino, Luca, manicomio non ti sente? Non so, sicuramente Luca sta usando il gommino, non lo so, sto usando, boh. Neanche io lo sento, Luca, sinceramente, neanche io. Ok, là, quelle che c'è per me, riprendi, grazie. Comunque ritieniti salutato da chi non senti. Luca, neanche ti sente, riprendi. No, Pomponi arriva fortissimo. Poco fa sentito anche Attino. All'inizio no, non lo sentivo, poi quando ho fatto la seconda entrata, la seconda chiamata, diciamo, arrivava fortissimo lo stesso. E vabbè, Gio Mari, ti sei? Ehi, sono qua, Luca. C'è entrato Pomponi, lo senti? Oh, vediamo, portalo fino avanti. Attore! Sì, non mi senti, sono a casa. Poco fa in macchina, anzi il furgone più che altro, ma adesso sono a casa. Io ti sento, io voglio abbastanza bene anche. Lo so, in macchina eri candela a Pedranieta. È un furgone con peluccia sul mono, ho capito. Quindi figurati tu, sono andato via Pedranieta perché c'è quel negozio dei cinesi che vende i portatili, hai capito? Solo che la frequenza sua è 462, 125, c'è anche uno squelch, hai capito? E quindi vogliono programmarti, tutto lì, ma ne ha 8 pacchi ne ha di quelli addirittura. Eia. Bene, Bacchisio! Bacchisio qua, mi ascolti Gio Maria adesso. Va a passaggio! Guarda adesso se è migliorato la radio. Sì, si è migliorato, ma io ti sento ugualmente, sono levato il volume e ti sento abbastanza bene. Adesso con l'antenino. Perché te l'ho detto, c'è un abisso da Graziano e cose, Luca. Sei un bel segnale è forte, è a fondo scala il segnale. Però la radio non è proprio di quella incisiva. Ma può darsi che stai parlando a voce bassa anche, può essere anche da quello. Anche quello, ognuno ha il suo tono di voce. E lui è più forte, capito? Avanti. Eia, va bene così, si è assorbato il volume, per cui va benissimo. Avanti, grazie. A chi altro c'era che non mi ero sentato a poc'anzi? Chi c'era? Luca, Marino però si è assentato. Tore dalla figlia ancora non è rientrato, appena rientra adesso si faceva sentire. Già chiama quando arriva, evidentemente impegnata ancora, per cui non è arrivata che era sua. Luca! Eia, da sovrinocchi. Ma come mai io a Marino qualche mese fa lo sentivo da casa, cioè da casa sua qua, arrivava benissimo, e stasera non lo sento, A chi lo sente? A Tore? No, a Marino. A Marino non lo sentivo nemmeno io, Graziano dice che lo sentiva, ma io non lo sentivo, e stavo ascoltando. C'era Marino, però sta facendo cosa, ha detto che rimane in quel rischi, sì. Allora quando è pronto già, quando finisce le cose che stanno facendo già rientra. Così è Bacchì. E così vuol dire impegnato. Ma accendeva stasera, avesse nulla. Io non ho sentito per niente, nulla, zero riporto zero. Nemmeno io, perché se no l'avrei sentito, Però l'ha sentito solo Graziano. Ma se l'ha sentito Graziano dovrei sentirlo anche io, perché Graziano è quel portatile, per cui io lo dovrei sentire più di Graziano. È chiaro, io sono con l'antenna esterna, dovrei sentirlo più bene. Grazie, così è. Tu l'hai sentito un po' cazzo, no? A Marino, sì che l'ho sentito. Però lo sentivo in certi momenti a tratti, perché ero spostato dal tavolo, però già lo sento. No, io non ho sentito né segnale né nulla, per cui è strano proprio, vabbè. Dai, aspettiamo che rientri allora. Chiamiamo a Tore, si è rientrato. Tore, ora ancora le cucciacche della figlia. Luca! Sì, già so in nuova che... Pompu, ma tu ci vai a Sparaggi? A Sparaggi? Ma tu sei tutto quanto scemo. E perché sono scemo? Perché non me ne frega niente. Se vuoi fare i soldi, dici, c'è una persona che vuole 20 portatili PMR LPD, 16 canali a 15 euro l'uno, in pratica te li paga. Ti scarichi il programma, ti prendi il cavetto e glieli fai, sono dei cacciatori. 15 euro l'uno? Sì, 15 euro l'uno, sì. La coppia c'erano i cinesi, già lo sai. Poi ho 9 canali PMR e 9 canali LPD, basta, non vogliono niente. No, sinceramente non l'ho capito niente, perché stavo guardando la TV, c'era un pezzo che mi ha fatto guardare, ho mollato tutto, dai, non ho capito lui. Allora, ci sono 20 cacciatori che vogliono in pratica la frequenza LPD PMR di quei portatili che usano i cinesi, che sono la coppia 16 canali ognuno, ogni portatile 15 euro per fare la programmazione, tutto lì. 15 euro, buone mi sembrassi chi si pompo. Sono io però, no, ci ho fatto l'uscita, quindi figurati tu. Per 15 euro non ne vale neanche secondo me, fare la programmazione, poi non lo so, vedrà Luca cosa fare, io non so cosa dirti. Io li ho visti stasera, quei portatili, già mi hai sentito anche a me, uno di quelli, stasera, sembra che siamo quindi. Ma, con la bambola mentre ci si caccia, per carità. Può capitare che qualcuno è buono, va bene, penso io, non lo so, ma chi? Antonello, io l'ho sentito spezzettato, ciao Antonello, buona serata, tutto spezzettato ti sento, è colpa mia o colpa tua, gli altri sento bene, a te è spezzettato, perché? Io sento soffocato, mia sorella. Io sento basso, a bacchino, ma è basso la verità, quindi non so cosa dirti. Ehi, vabbè, anche a me arriva basso, però è troppo affogata mi la radio tua o Antonè, o ti metti proprio le labbra proprio attaccato al microfono, perché rimane affogata un po' e certe volte non si capisce ciò che stai dicendo. Ah, io? Ehi, allora basta dirlo, adesso va bene, guarda un pochettino. Ehi, caspita, ho cambiato antenna e sto uscendo così forte. Adesso ti ho sentito perfettamente, ecco. Evidentemente ti avvicini troppo il microfono alla bocca, capito? Allora è sentito preparato, vabbè. Adesso va benissimo, così è Bacchì. Adesso sì, adesso era lui. Perché poco fa era... Non si capiva un H. Adesso sei chiaro, Antone, vai. Signor Bacchisio! Rettore, arrivato sei. Tu a Torello di Giammi, aspetta, a Torello! Dimmi, sono qua, mi sono trovato da microfono. Da quando ho cambiato antenna, sto scendo più forte. Dimmi tutto. Già sta uscendo bene, aspetta che è arrivato Tore, riprendi Tore, me la bei. Sì, bello bei. Ciao Antone. Adesso, bene, mi senti adesso? Sì, fondo scala, figurati. Come ti devo sentire, secondo te? No, stavo dicendo a Bacchisio, se mi ascolta bene adesso. Sì, benissimo, Tore, pulito, limpido e chiaro. Anche poco fa mi sentivi bene. Anche poco fa, anche quando ero a San Giovanni sentivo bene. Sì, già andava il Sant'Ennino. Già funzionava. Dai, sali su, mi dici quel menù dove devo andare. Quale nuvola? Lascia che Antonello, sono Santonella. Antonello, per aumentare le cose, la potenza, cosa c'è scritto? Sì, ho battito, la verità, ho sentito meglio la macchina che la cassa. Segnale zero, radio un bel bassa, la verità si dica. A Torello ti ha chiesto Bacchisio per aumentare la potenza della radio, cosa c'è scritto per aumentarla? Non lo so, se un barattino sulla 27 all'IC deve andare lui, se invece di questi apparecchi qua VU, quello che è, va nel menu e aumenta l'LC e il mic gain. Cosa deve fare secondo te? Ma c'è una sigla specifica per aumentare la potenza scritta, tu lo sai, quello voleva sapere, vero Bacchi? Eia, è il fratello di quello che si è bruciato, Antonè. Il fratello di quello che si è bruciato. E dunque esce basso di radio, bisogna andare sul menu, però che parola c'è scritta, interrogativo? Boh, secondo me non è questione di LC e MC la verità lì, di questo di antenna, c'è un lavandino come antenna, non ti sento più come prima, io, boh, sei peggiorato se ho Bacchi, ma è veramente peggiorato, me. Non ti sento quasi di radio, sembra che sto uscendo con l'antenna della macchina, attaccata in casa. Una volta uscivi bene. Appunto, le domande a te, ti ha detto che questo è il cugino di quell'altra radio che passai tu o che hai visto tu. A chi che mi la via in Germania, dunque fa vita tedesco, cosa avevi scritto per aumentare la potenza? Capito hai? A Torre. Basta guardare nel menù, aspetta un attimino, mi stavo chiamando al telefono. Ma senza nel menù era parecchio. Che controlla la potenza, LC e MC e quello che è. Ma chi ho capito hai? Ho sentito, lo sento male, a scarica, se sente tutto scarica senza capire niente. Cosa ha detto Grazia? Ha detto a guardare nel menu, ci sarà scritto LC e LC, ma quel dinosauro importare bene. Vai tu! Ehi, ehi, tutto cosa mi dici? Ah, bella. oppure in Mar Russo, oppure in Forro, è sempre la matessa in cosa. Diglielo tu, Toro, che tu te ne intendi di Bucci, Picci e cosa dice Antonello. Ma Antonello, il fatto che dalla potenza del coso, bisogna cercarlo nel menu, bisogna andare con la panella, sono tre potenze, sono, oh, oui, eccolo, dovrebbe esserci white è più alto. Capito, ma chi cosa sei, dottore? Sul menù, sì, sono andato poco fa sul menù, adesso non mi ricordo cosa ho messo. Adesso se ci rivado è frugo, poi già lo chiamo. Segnatelo quello che hai messo, se no poi sbagli e ti becchi lì. Scrivitelo un pezzo di carta, poi se non te lo ricordi guardi nella carta e sai che devi ritornare lì. Ehi, adesso vado un po'. Bacchi. Sì, mi giomarì. No, toccare il niente, te lo fa Tore già lo sa fare, se è preciso a quello del Tore. Tore l'ha già fatto, per cui è un attimo a fare quella cosa, ho noto. Sono tre potenze già. Basso, medio e alto. Solo che in inglese non lo so come ti è scritto. Basta guardare il tuo, che tu l'hai già fatto, e poi un attimino, ti vai magari domani e glielo fai, capito? Se no magari non è tanto facile, hai capito, a capirlo, ma chi? Vabbè. Tanto sto usando quello preciso al tuo, no, Otto? Sì, penso di sì. Così che... Tu adesso guardalo un attimino, no? E glielo spieghi, oppure glielo fai tu. Dai signori, io vi lascio, che mi devo fare cosa, per cui ne approfitto. Sentiamo domani se Dio vuole, dai. Ciao Bacchisio, ciao Graziano e ciao Tore. E ciao anche a Luca. Lucio, se ci sei, batti un colpo e prendi tu, dai, io chiudo. Ehi, ciao Giovanni, alla prossima, dai, buona cena. Ciao, avanti Graziano. Ciao Gianmarì, ci sentiamo. Sì, ciao, ci sentiamo domani, dai, ciao, chiudo. Sì, ok, riprendi grazie. E chi, sistemato hai? Secondo me è giunto un cusso. Già dei giunto, un cusso dei giunto. Ah, grazie così. Andiamo, via, andiamo. Tanto è in giro che c'è un virus, mi. Ah? È in giro che c'è un virus. Ma grazie, non hanno più lucido più nel virus, è così sempre. Peggio di me. Ma com'è che oggi è febbraio? Ma domani non attessi. Sì, va, miri, bizzini. Dammi i body e ancora. Venerdì sera si appropriano della scuola. Quindi, da venerdì sera, sabato, domenica, luni e martedì non vanno in cura. Anzi, domenica no, però luni e martedì non vanno in cura, e né sabato né manco. Oh, riguardo adesso... Il segnale è forte. La radio. La radio è buona. Ha migliorato? Frugando sono andato, non mi ricordo cosa ho messo, longo o so che cosa. Cosa? Sono tre potenze, minimo, medio e alto. Non c'è scritto minimo, medio e alto, non ce n'è. È scritto tutto in inglese. Tutti circolari. Esatto, che siamo Fabio e Danny, grazie, un attimino. In inglese non lo so com'era scritto. Dai, guarda il tuo, poi me lo dici. Il libretto non ce l'ho qua, aspetta un attimino. Sono in Italia. Beh, sono arrivato, sì. Chi c'è? Buonasera. Marchisio! Eccomi! Sto cercando nel libretto, ma non riesco a ciapparlo, care. Per trovarlo? Signor Marchisio! Eccomi! Non sono riuscito a ciapparlo in occhi, no? Trovato? Oh, è tutta una cosa strana. Trecenni, ma boh. No, in inglese no, non lo mastico. Speak English, so. carta da vaso, l'inglese non lo masticò bene. Non lo devi masticare, lo devi leggere. Chi si è rubato? Ciao, Tom. Ciao. Senta, ce la sentiamo domani, Tom. Ce la sentiamo domani. Buona cena, buon tutto. Io sono arrivato all'ora del merendero. Ciao anche a Luca, buona serata anche a lui. A domani. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Ciao Luca. Non sono Luca, sono Franco da Sorso. Ciao. Ok, ciao. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Saluta Bacchi. Ciao.